24 mattino. L'Italia si desta. Di Alessandro Milan. Alino, sai cosa? Adesso scrivo una lettera solo per lamentarmi della tua trasmissione. Scrivo Squinzi, io scrivo Squinzi. Va bene, va bene. No, sei un ciocca piatti. Poi lo scrivo Squinzi. Buongiorno a tutti, sono le 6.32 in Italia, non so che ore sono negli Stati Uniti, ma vorrei subito salutare Alberto Forchielli. Sono qua io, Alberto, sono qua. Il ciocca Ciao, piatti. Alino. Non hai scritto a Squinzi ancora? No, poi dopo. Meno male. Dopo ci hai ripensato Alberto Forchielli, non so, io sono ancora qua. Allora, per il momento, se arriva una lettera al presidente Forchielli, gli ho detto di non aprirla, magari, se il mittente è Alberto Forchielli. Va bene, siamo qua. Buongiorno cari ascoltatori, questo è 24 mattino, siamo in diretta fino alle 9 e c'è la nostra Miriam Lucchetti in redazione, c'è Peter Bescapè, il nostro alpino, in regia. E allora può aprire subito il Parlamento? Sì, apriamo il Parlamento. Il caffè volentieri a tutti quanti. Come sempre c'è Nicole Minetti che forza gente che offre, dal che offre il caffè. Abbiamo barman generosi come Santa Claus, li paghiamo noi e con quello che va bene. Voglio bere tanto da tornare storto come il dottor. Allora, il vostro ciocca piatti di fiducia è sempre qui. Devo salutare un graditissimo ritorno, oltre Alberto Forchielli, Mirta Merlino. Buongiorno, ben svegliata. Eccoci. Buongiorno qua. Buongiorno. Eccola, sentite, la conduttrice sulla 7 dell'aria che tira ogni giorno alle 11. Tra l'altro sta andando benissimo, lo so, vabbè, ma bene, bene, complimenti. Sì, stiamo facendo grandi ascolti, per fortuna. Sono contento. E il ciocapiatti di fiducia sono io. Che cos'è il ciocapiatti? Te lo potrebbe spiegare Alberto Forchielli, il nostro presidente dell'Osservatorio Asia. Subito l'ho voluto introdurre perché Alberto l'abbia messa come sigla ormai, questa del ciocapiatti, del ciocapiatti. Se insisti a fare l'apologia dei discorsi, adesso se mi fai un'altra volta l'apologia del discorso di Letta. È certo, c'è l'apologia del discorso di Letta. Il discorso di Letta. Alberto Forchielli è da Boston, una città ancora ferita, immagino, no? Che clima c'è lì a Boston, dove? No, è un clima di fierezza, perché li hanno catturati, hanno bloccato la città per un giorno e mezzo, la gente non usciva di casa, però poi alla fine i buoni hanno vinto contro i cattivi. Li hanno presi. È un clima di forza, di reazione, quello che avremmo, sì, quello di cui avremmo bisogno noi qui, Mirta Merlino, avremmo bisogno qui. Allora, Alberto Forchielli, non so se lo conosce, ogni tanto viene anche da voi sulla 7, è uno che le dice chiare a tutti. Qua, siccome facciamo l'apologia dei discorsi, cosa che io non faccio, di napolitano, non farò mai l'apologia del discorso di Letta. Oh, ma lei l'hai sentito ieri il Premier, Mirta? Sì, l'ho sentito. Ha fatto un programma che via l'IMU, via reddito minimo a tutti, via il finanziamento ai partiti, via le province, lì si è sentita una grassa risata, vabbè, via di qui, via di là, meno tasse sul lavoro e che dobbiamo fare? Mi sono svegliato, ho detto spettacolo, poi ho detto vabbè, ma è un programma di governo. La prima reazione che ho sentito, stavo vedendo la cosa in diretta, c'era la diretta sulla 7, è stata di Guido Crosetto, che ha detto è un programma meraviglioso, mi sono fatto due conti, ci vogliono 150 miliardi. Più o meno sì, magari 150 no, però insomma 30 pare, però, almeno. Esatto, diciamo da un minimo di 8 a un massimo di 30 nei prossimi mesi, questo è poco ma sicuro, quindi per carità è tutto molto condivisibile, capisco che il paese ha bisogno che gli si dia un messaggio un po' di fiducia, dopodiché ci sono delle cose che mi fanno, però che mi straniscono, cioè non penso che nello stesso discorso si possa dire e dare atto a Mario Monti di aver fatto molto bene e poi dire che si vuol fare tutt'altro. Sì. e soprattutto se Letta può fare queste cose oggi, vuol dire che fino a ieri Monti è stato praticamente un vampiro, un affamatore certo. di popoli, perché no, ma poi è fantastico, perché via l'IMU, via il finanziamento ai partiti, meno tasse sul lavoro, quindi via l'IMU, ma anche il reddito minimo come vogliono il Movimento 5 Stelle, cioè diciamolo chiaramente, una paraculata alla grandissima. Sentite Forchielli, senti un po' a un certo punto Letta come ha concluso il discorso con la citazione biblica. Onorevoli colleghi, vado a concludere. In questi giorni ho pensato molto al personaggio biblico di Davide. Come lui, con lui, siamo nella valle in attesa di affrontare Golia. Come Davide, in quella valle, dobbiamo spogliarci della spada e dell'armatura che in questi anni abbiamo indossato. Eccolo lì, Forchielli. È Davide. Davide contro Golia. Chi è Golia? Non lo so. Non lo so se Golia è la Merkel. No, no, sì. credo. Boh. Bella questa lettura. Sì. Cioè, chi è Golia, capito? Non ha fatto delle promesse senza copertura. Poi questo non è un programma di riforme, è un discorso da democristiano dove cerchi di far felici tutti, mentre questo non è un paese dove puoi far felice la gente nel breve termine. Quindi onestamente non mi è piaciuto, anche perché sono necessarie manovre economiche, idee economiche forti, capito? Se non né riforme politiche né idee economiche, direi di no. No, niente. No, ma io l'ho detto da ieri, moriremo democristiani tutti, è tornata la democrazia cristiana, lo dico da un po'. Oggi il manifesto titola così, cioè ha rubato, rimoriremo democristiani. L'hanno dato lì in America, in Breaking News, il discorso di Letta? È uno dei tanti primi ministri che passa, c'è questa ombra lunga di Bungasconi dietro, non ha inciso, ha avuto una copertura. C'è stata la novità di questo ragazzo giovane in gamba, che io conosco benissimo, perché Enrico l'ho visto proprio da ragazzo, l'ho visto poi dopo diciamo che il discorso è passato completamente all'ombra. Sì, qua ha vinto Berlusconi, anzi come lo chiama Mirta, lo chiama Bungasconi, lo chiama Forchielli, ha vinto lui ancora una volta, mi sa. Se pensi che sul tema più delicato, che sono le riforme istituzionali, tra l'altro ricordiamo che Letta ha fissato la durata nel suo governo proprio su 18 mesi, che sono il periodo nel quale bisognerebbe fare le riforme istituzionali, Berlusconi ne chiede la guida, una specie di nuova bicameralina, quindi non solo è un governo che porta avanti il primo dei suoi punti, perché Letta e ferma l'IMU naturalmente vuol dire insomma, in qualche modo che l'accordo è stato raggiunto esattamente come voleva il Cavaliere, tant'è vero che ieri Alfano ha detto musica per le mie orecchie, ma poi il fatto che lui in questa fase, dopo che è stato considerato impresentabile, dopo che è stato considerato ineleggibile, oggi addirittura chiede la guida della bicameralina per cambiare la costituzione del paese e fare riforme istituzionali, vuol dire che è una vittoria piena. Ieri circolava questa battuta, racconta Libero, Forchielli, circolava questa battuta tra i deputati del Popolo della Libertà, bello il discorso di Enrico Letta, sembra che gliel'abbia scritto lo zio Gianni. Questa è cattiva, Questa è cattivella forte, Forchielli. Ma no, il discorso mi sa che gliel'ha scritto Filippo Andreatta. Perché lui è della scuola Andreatta. Il discorso gliel'ha scritto Filippo, se era per me avrei detto facciamo la patrimoniale, paghiamo l'IMU sì, perché non c'è altro modo di quadrare i conti, facciamo una patrimoniale, Una bella patrimoniale. Perché è giusto farla, perché è giusto farla, però al cavaliere non va bene la patrimoniale. Ma cosa vuole? Cioè, Letta è il delegato di classe che porta la squadra ai giochi della gioventù e Alfano è la spia della maestra, capito? No, e la maestra chi è? Berlusconi. Bungasconi. Quale Bungasconi, secondo me, non ha nessuna voglia, ci ho pensato bene, non ha nessuna voglia andare al governo, perché se lo fanno a pezzi, ossia se Bungasconi mette la faccia fuori lo fanno a pezzi, lui più che per i problemi giudiziari è preoccupato per l'andamento non positivo delle sue società che vanno, che vivono sul perché ormai lui vive sulla pubblicità, capito? La pubblicità è meno 20, senza consumi non c'è pubblicità. Adesso Berlusconi al fallimento, al fallimento. Anche meno 25. Mediaset ha fatto dei brutti numeri. Poi cioè, cosa vuole Berlusconi? A cosa ambisce? Cosa vorrebbe? Il suo grande obiettivo sarebbe probabilmente tornare alle elezioni, vincere e fare il Presidente della Repubblica, questo non lo toglie nessuno. Presidente. Però adesso non se lo può permettere perché se lui mette la faccia fuori lo disintegrano. Disintegrano lui, l'Italia e le sue aziende. Forchielli, c'è Mirta che ha una teoria su questo. Mirta, che... No, io penso che ha detto delle cose molto sagge, nel senso che credo che il problema delle aziende berlusconiane è un problema molto forte. Voglio ricordare che ieri il primo effetto dell'insediamento, del discorso è stato che due aziende soprattutto in banca hanno avuto grandi risultati, e una è Monte dei Paschi e l'altra era Mediaset, quindi anche molto bipartisan, diciamo, come risultato borsistico. E credo che il problema vero per Berlusconi sia che, essendo la sua un'azienda che si basa molto sui consumi, e quindi perché naturalmente vive di pubblicità, come tutti noi peraltro, pubblicità che cala del 25%, per le televisioni è una pessima notizia, e questo accade naturalmente perché è fermo, il paese non cresce, quindi l'idea di buttare, quindi l'idea dell'azienda, tanti soldi dentro l'economia, di rimettere in moto il motore, è una cosa che naturalmente interessa gli italiani, ma interessa anche l'italiano che più di tutti vive della capacità di spesa degli italiani, quindi il tema c'è. Il tema c'è tutto, ma Presidente della Repubblica per Forchielli, oppure senatore a vita è anche un'altra idea? Quello del senatore a vita è l'idea di Napolitano di fare prima Prodi, una volta fatto Prodi, fare anche Berlusconi senatore a vita. Questo è uno scenario, così si ritrovano lì, sì. Berlusconi. Il vero problema, secondo me, è che questo è un discorso, infatti, che dice al paese di metteremo soldi nel sistema, e tanti, come hai detto tu all'inizio, no? Li mettere da tutte le parti, perché toglie l'IMU ma fa anche reddito di cittadinanza. La cosa veramente un po' singolare, specie per una persona come Enrico Letta, una persona molto competente. Dove trovare i soldi? Ma dove li trova? Non ci sono le coperture. Ma dove li trova? È incredibile che un discorso così lungo di 30 pagine non c'è un rigo sulle coperture economiche. Alberto, allora, rientriamo tra un minuto, c'è il traffico, poi c'è la segreteria telefonica e poi a Forchielli voglio far sentire un grillino, un grillino che ieri ha preso la parola al Parlamento, perché vorrei capire come va con i grillini, il rapporto un po' tormentato tra Forchielli e i grillini, soprattutto in rete. 24 mattino. Qui è un bel casino. Mi sa che veramente siamo arrivati al fondo. Allora, bilancio del governo Monti, l'IMU, esodati, mai sentita prima questa parola, poi ha mandato i nostri militari in India un'altra volta, lavoro fisso addio, tanto uno poi si annoia, però lui è là e ci voleva tornare, no, io non mi presenterò mai alle elezioni. E ci voleva tornare, e oltretutto era fatto da bocconiani, buffoni proprio, buffoni. Caro Milan, dopo la sparatoria per cortesia tienici subito informati su quante auto blu andranno a usare i nostri amati politici. Ricapitolando, non c'è lavoro, non abbiamo soldi per mangiare, si fa fatica a campare, e voi vi meravigliate se qualcuno spara in piazza? Non sarà l'ultimo. Nell'antichità Scipione, detto l'Africano, dopo aver salvato Roma, disgustato dalla ingratitudine dei romani, la abbandonò andando in esilio volontario, dicendo: Roma, non avrai le mie ossa. La stessa cosa potrebbe dire oggi Mario Monti. Caro Milan, ancora una volta si ripropone la vecchia filastrocca che recita: dove avanza un seggiolino, ecco spunta l'abbonino. Forse dopo tante incazzature qualche spiraglio di cambiamento. Certo, il massimo sarebbe stato mettere su una barca a vela per il giro del mondo Bersani, D'Alema, Berlusconi, Monti, Casini, Fini, naturalmente senza cibo e acqua. Eccoci qua, siamo con Mirta Merlino, conduttrice dell'Aria che tira sulla 7 alle 11, e Alberto Forchielli, che ho interrotto prima. No, adesso è furibondo. No, Alberto, eccoci qua. No. Ah no, non mi ricordo più cosa volevo dire. No, allora faccio sentire io un grillino, il grillino onorevole Colletti, ieri battezza così il governo Letta. Questo governo odora di democristianità, odora di intrecci di comitati d'affari quali CL e Compagnia delle Opere. Visto il ministro dell'Interno che ha scelto o che è stato obbligato a scegliere, possiamo ben dire che questo sembra il governo della trattativa Stato-mafia, del bavaglio alla magistratura e dalle opposizioni politiche. Vabbè, poi l'hanno anche un po' interrotto perché ha sforato i due minuti. Forchielli, il governo Stato-mafia, e poi dice del salvacondotto a Berlusconi. Come va coi grillini? Sono sempre un po' rompimaroni? Ma no, perché ormai cosa vuoi... Ormai hanno visto che non, il voto a grillo non serve, non è costruttivo. Ha messo lì a capigruppo due trichechi, la Lombardia e i Crimi, che stanno antipatici da morire. Poi anche lui è uno showman, adesso cosa fa? Si inventa un altro show? Sì, l'ha già fatto una volta. Grillo ha perso l'opportunità della sua vita, o riusciva a far convergere i voti su Rodotà o votava Prodi. Adesso ha chiuso addirittura. Non lo vedo. A tutti io sento molto la base . Chiamo sempre Imola, la gente. Molta gente, no, basta, molti voti. Sì, ma guarda, se Letta non fa, non so, Mirta, se Letta non mantiene anche il 50% delle promesse che ha fatto, io temo per il Movimento 5 Stelle, invece sarà un trionfo, che invece non sia così, come dice Forchielli. Cioè, però certo Beppe Grillo ha perso molto. Allora, io penso questo, che sta nell'intesa dei due partiti il problema di Beppe Grillo. Secondo me i due streaming, lo streaming di Bersani e poi lo streaming di Letta, sono il simbolo di quello che è successo in questi mesi, nel senso che lo streaming di Bersani era uno streaming che Bersani era lì col cappello in mano a chiedere, e si faceva, obiettivamente si è fatto, insomma, insultare e umiliare, e i toni erano anche molto aspri da parte dei grillini. Nello streaming di Letta, che secondo me è stato il primo gesto politico interessante per capire il personaggio, Letta è arrivato a testa alta, è arrivato con la certezza di avere le spalle coperte, di avere una maggioranza enorme in Parlamento, e quindi si è permesso anche lusso di spiegare ai grillini come si fa la politica. Si è ripreso un po' l'orgoglio del giovane vecchio politico che sa dove mettere le mani, che sa cosa fare. E effettivamente i due Crimi e Lombardi sono sembrati molto spiazzati. In realtà era cambiato il clima, perché fino a che i grillini erano fondamentali per la creazione di questo governo di cambiamento, tutti li rincorrevano. Sì, nel momento sì. in cui la politica si ricompatta e si rimette insieme, i grillini perdono un po' la loro verve, la loro forza. Però è bella questa. Dopo, hai ragione tu, c'è il dopo, perché naturalmente che succede? La promessa di questo governo, che se resiste almeno 18 mesi e porta a casa dei risultati, tu a quel punto hai sgonfiato il fenomeno. Sì, virus. Certo, sì, certo, ma oggi Roberta Lombardi fa un'intervista al Corriere della Sera e dice: ma ha detto almeno 10 punti dei nostri, cioè via il finanziamento ai partiti, via le province. Ma queste cose, ben venga, cioè voglio dire, chiaramente se fa queste cose, fa le cose che vuole anche il Movimento 5 Stelle. Il problema è se le fa. Però a me piaceva Forchielli, l'immagine che ha dato Forchielli, cos'è Letta, il rappresentante di classe che porta gli studenti, il delegato di classe che ai giochi della gioventù, porta la classe ai giochi della gioventù, e Alfano che fa la spia della maestra, la spia della maestra, ecco. Comunque tant'è vero che oggi il giornale apre con un pezzo di Sallusti che dice guida Letta, ma il programma lo fa Berlusconi. Effettivamente loro rivendicano orgogliosamente questo. Certo, Forchielli, moriremo. Sono solo variabile. Forchielli, moriremo adesso, democristiani e bungasconiani. Questo. Sì, adesso Letta cerca di intenerire la Merkel, capito? Perché tutto il buco è tutto lì, capito? Golia. L'unica vera copertura è quella di avere la deroga sul disavanzo, quindi lui va con la Merkel. Come va dalla Merkel? Va lì con quel suo tono democristiano? Come va secondo te, Forchielli, dalla Merkel? Come va? Come si pone? Va lì, dice Frau Merkel, e poi? Ma non so, parla mica tedesco, un po' pretesco. Vabbè, capito? Tutto con dei discorsi teorici, e questa vede questo ragazzo e probabilmente fino a settembre non succede niente, perché deve tenere duro, perché deve vincere l'elezione. Dopo settembre c'è caso che gli concede qualcosa, solo che lui le cose le deve far prima, per cui la cosa è un po' complessa. Vabbè, però quindi la Merkel, qualche deroga dalla Merkel, può darsi che lo scavalli, questa cosa dell'Imo, però è sempre fatta sulla dignità degli italiani, gli italiani pezzenti, straccioni. No, come pezzenti e straccioni? No, Mirta, reagisci! Sì, Forchielli così, ecco, ci regala questo sempre sugli italiani, pezzenti e straccioni. Ma allora, come? Io temo che quello che pensa Forchielli in Germania lo pensano in tanti, purtroppo, quindi il problema si pone, nel senso che è stato abbastanza interessante, no? Il giorno in cui Letta ha fatto il primo discorso da premier incaricato, dopo poche ore il ministro dell'economia tedesco Schäuble ha detto: l'Italia impari a risolvere i problemi a casa propria, smetta di rovesciare sul... Quindi insomma, voglio dire, il tema c'è ed è forte, cioè questa idea che gli italiani siano un paese di pasticcioni che però hanno fatto casino, va in Europa e cercano aiuto, cioè da questo punto di vista secondo me è basta. Letta è un pedigree europeista convintissimo, assurdo, che addirittura un libro sull'Europa, sì, sull'Euro. Europa, certo. Esatto. E poi, come diceva all'inizio Forchielli, secondo me la cosa vera è che è il volto presentabile di questo paese. Cioè, la Merkel non rivedrà arrivare lì il suo amico Berlusconi, che l'ha chiamata, ricordiamolo sempre. Sì. Culona, inchiavabile, diciamo. Ecco. Ma vedrà un ragazzo per bene, ben educato, gentile e anche il più giovane, che arriverà lì a dire l'Italia, come ha detto ieri anche nel discorso, non intende mettere in nessun modo in discussione i vincoli europei, però abbiamo bisogno di un aiuto. Chissà se si commuoverà fra un che peraltro sinceramente con la Francia la stanno facendo, cioè, l'altro giorno su Financial Times c'era un pezzo in cui si diceva che la Francia rimanderà di un anno il puntare l'obiettivo del 3%, quindi effettivamente quando i paesi sono credibili vedremo come si presenterà con la Merkel. Io intanto vi devo ringraziare molto e salutare, diamo la buonanotte Alberto Forchielli, so che questa settimana ha fatto uno strappo per noi a intervenire al Parlamento, grazie Alberto, e grazie a Mirta Merlino, la ritrovate alle 11 con l'aria che tira sulla 7, e allora noi ci fermiamo per il giornale radio.

Ecco, questo è l'articolo di Mimmo Candido, quel lavoro col taccuino che batte la tecnologia. E la speranza davvero che Domenico Quirico, inviato della Stampa scomparso da 20 giorni in Siria, possa ridare notizie di sé. 24 mattino. Eccoci qua, sono le 8:16, ben ritrovati da Alessandro Milan. C'è da dire che le parole del deputato Cecconi, che prima ho letto nella segna stampa, ma le rileggeremo, al secolo XIX, ha ricevuto una valanga di basta, non fare l'ipocrita, ha ragione lui. L'onorevole Cecconi del Movimento 5 Stelle ha detto al secolo XIX avesse colpito i politici, si parla dell'attentato di Preti, avesse sparato a un'auto blu, avrei capito il senso, il significato. Deprecabile la violenza, ma sparare a un carabiniere è una cosa, è deprecabile, sparare a un politico è una cosa diversa. Onorevole Cecconi del Movimento 5 Stelle, ma tutti a insultarmi, a dire che ha ragione Cecconi e sono io il rimbambito che faccio l'ipocrita a dire che non è così. Comunque 8:17 minuti, parleremo anche di questo, in questo clima politico in cui ieri io, quando ho sentito queste parole, musica per le nostre orecchie, dalla riduzione delle tasse, Alfano, parlare di musica per le nostre orecchie, alla quando, ovviamente la musica per le nostre orecchie è il discorso di Enrico Letta, che qualche maligno racconta Libero nel Popolo della Libertà, ieri diceva sì, il discorso di Enrico Letta lo ha scritto in realtà lo zio Gianni, ma maligni certamente, ma riportati da Libero. Ebbene, ma quando ho sentito queste parole di Alfano, un pochino, almeno il senso di straniamento c'è, forse non sono abituato, non siamo abituati, insomma, che Alfano possa dire musica per le nostre orecchie, di un qualcosa detto da un leader del Partito Democratico. Forse è quello a cui dovremmo abituarci, forse è giusto così, non siamo abituati come cultura politica ed è invece quello che ci vuole per far rilanciare il paese. Ne parliamo con voi anche 800 24 00 24. A un certo punto poi il programma di Letta era sontuoso, il lavoro, le tasse, via l'IMU, meno tasse sul lavoro, più crescita, reddito minimo garantito, via il finanziamento ai partiti, via le riforme, abolite le province, fare la riforma elettorale. Io ho pensato, facesse il 50% di queste cose, torna la dinastia degli Enrico, re Enrico Letta. Ne parliamo con l'onorevole Giuseppe Civati del Partito Democratico, che saluto. Buongiorno Civati, eccoci. Buongiorno a voi. Civati, che è uno di quelli che è uscito dall'aula, o meglio non ha partecipato al voto di fiducia, tra poco ci spiega perché. Saluto anche Massimo Fini, scrittore, editorialista del Fatto Quotidiano. Buongiorno Massimo, ben ritrovato, eccoci. Buongiorno a lei. Allora, Civati, intanto, perché? Cioè, si è trovato un po' da solo in questa iniziativa? All'inizio siete partiti in 100, ma vi siete trovati un po' pochi a dissentire, o no? Ma guardi, ci sono anche quelli che hanno dissentito eppure hanno votato sì, ci sono numerosi deputati che si sono espressi in modo critico, che poi hanno scelto la via della responsabilità, richiamati all'ordine dal gruppo del PD e dal partito, insomma. Li capisco anche, bisogna capire però che cosa ce ne facciamo di tutte queste cautele, di queste preoccupazioni, se diventano parte del discorso politico del governo Letta, se verranno appunto lasciate da parte come se fossimo dei rompiscatole, un po' velleitari. Ma il senso del suo dissenso qual è? Cioè, nel momento in cui si è deciso e si è capito che i numeri per fare un governo da soli o col Movimento 5 Stelle, che vi diceva di no, non c'erano, e quindi l'unica alternativa pare questa. Perché lei dissente? A che cosa? Intanto dissento dal fatto che tutto questo sia accaduto per caso, cioè il PD ad un certo punto ha deciso di fare così, dopo l'affossamento di Prodi si è andati tutti da Napolitano, sapevamo che Napolitano avrebbe preferito questa soluzione, altrimenti saremmo tutti degli ipocriti. Napolitano ha proposto il governissimo, devo dirle la verità, mi auguravo che fosse un governo di scopo limitato nel tempo, con un programma meno ambizioso e sontuoso, come diceva lei, più credibile dal punto di vista politico ed elettorale, nel senso che noi col PDL non abbiamo mai avuto collaborazioni di sorta se non con il governo Monti, e sappiamo come è andata a finire, e sappiamo anche che forse gli italiani hanno bisogno di risposte immediate, ma che poi si augurano di poter scegliere ancora tra centrodestra e centrosinistra. Per quello che ieri non ho partecipato al voto, tenga conto da ultimo che tutte queste cose io al PD le ho potute dire soltanto ieri, cioè a cose già fatte, quando la decisione era già stata presa, avevamo già varato il governo, per cui la discussione del PD è avvenuta alla rovescia. C'è da dire, adesso vedremo un po' anche che succede. Massimo Fini, lei lo capisce, l'atteggiamento di Civati è un atteggiamento da dire come qualcuno che dissente da questa melassa che si è sparsa nel Parlamento, oppure in questo momento l'Italia ha bisogno di un'unità e quindi di un qualsiasi voglia governo anche un po' strano nelle forme? No, per carità, capisco perfettamente l'atteggiamento di Civati, ci mancherebbe che uno non potesse dire il suo dissenso e farlo valere, come ha spiegato mi pare Civati adesso, è che ha potuto esprimerlo solo all'ultimo momento, se non ho capito male. Certo. E la questione però di Fini qual è? Cosa non va bene di questo governo? Perché molti non va bene questo, secondo me, è che qui, e qui Civati non credo sarà d'accordo, ma è che qui a ricostruire il paese sono state chiamate due forze che alternativamente per 18 anni hanno governato, hanno portato questo paese al disastro economico, sociale e, per quello che riguarda la destra berlusconiana, anche morale, e queste stesse forze adesso, visto che il tetto della casa che avevano distrutto stava per cadere in testa anche a loro, si sono rincompattate intorno a nonno Napolitano. Ecco, è questo che non funziona, cioè, perché sono appunto le stesse forze responsabili di quello che è successo. Però sono le forze che sono state elette, Fini, se non sì. Cioè, a parte che un rinnovamento, bisogna anche dirlo, nel Parlamento c'è, perché una percentuale del 40%. Sì, ma è un sistema che è fallito, è il sistema della democrazia rappresentativa, il sistema dei partiti, il sistema della partitocrazia. Adesso lo si diceva addirittura dal 1960, e questi hanno fatto orecchie del mercante. Tenga presente che c'è un 25% di astensione, che secondo me è estremamente significativa. Abbiamo visto che in Friuli ce n'è stato un 50%, ripetendo la vicenda siciliana, che si era detto ma la Sicilia è un posto diverso, eccetera eccetera. Quindi secondo me chi è veramente fuori dalla grazia di Dio sono proprio questi che si astengono e che esercitano la loro potestà in questo modo, secondo me, molto molto civile. Sì, c'è da dire che Civati, qual era l'alternativa? Perché lei avesse potuto parlare con quelli del PD, le avrebbe detto no, stiamo sbagliando a fare così, dopo che per la verità si è provato in altro modo. Dovremmo fare invece cos'ha? E quel cos'ha cos'è? Guardi, intanto non si è provato fino in fondo nell'altro modo, perché era del tutto evidente che il 5 Stelle non avrebbe mai accettato Bersani premier e che si doveva cercare una figura diversa che potesse fare un governo, come si diceva allora, del cambiamento. Il cambiamento prevedeva anche un cambiamento di chi lo guidava, secondo me. Non è stata provata questa carta. Ma tipo? E la discussione. Cioè, ma non lo so, guardi, ci sono di figure che si potevano discutere con loro, ce ne sono tante. Il problema è che nel famoso streaming la mossa non è stata fatta e quindi ci siamo impiccati all'idea che ci dovesse essere un governo di minoranza con tutti i guasti che sappiamo. Seconda questione, sul Presidente della Repubblica ci sono stati 101 franchi tiratori su Prodi che hanno indirizzato inevitabilmente la vicenda politica a quello che dice lei, ma per risponderle, arrivati a ora, si poteva fare un governo di pochi mesi con obiettivi chiari che ieri non sono stati dichiarati, perché ieri gli obiettivi ce n'erano 150.000 e così si pensa a un governo che inizia e che strada facendo trova la propria agenda. Secondo me lavorare così è profondamente sbagliato, un po' perché abbiamo visto l'entusiasmo di Berlusconi e dei suoi su proposte che nel PD condividiamo fino ad un certo punto. Le faccio un esempio: perché bisogna togliere l'IMU a chi se la può permettere e sprecare risorse che invece potrebbero essere utilizzate per abbassare le tasse sul lavoro e sulle imprese? Rispondo, perché se no cade il governo al primo giorno, perché se no cade il governo tra un mese, no, visto che... Però buttiamo via 2-4 miliardi perché c'è una promessa elettorale di Berlusconi. Se invece avessimo definito con maggiore chiarezza già nel discorso di ieri, nel dibattito in aula, quali erano gli obiettivi a brevissima scadenza, avremmo risposto alle questioni che ci pongono giustamente gli elettori, che ci pone all'emergenza del Paese, senza pregiudicare i prossimi due anni, perché Letta ha spiegato che la Convenzione per le riforme, che è il côté istituzionale di questo governo, farà un tagliando fra 18 mesi. Sì, a me sì. Sembra una... Anch'io quando l'ho sentito ho detto 18 mesi, ma come? Allora guarda, viaggiamo a vista lunga, cioè abbiamo... Appunto, però la credibilità dell'operazione, oltre a quello che diceva Fini, che io non condivido in toto, ma che ha le sue ragioni, insomma c'è da dire che questa collaborazione tra PD e PDL, addirittura quinquennale, a me un po' spaventa nelle proporzioni e nella quotidianità, perché poi conosciamo i soggetti, proprio sì, perché li abbiamo visti all'opera, sì, sono rinnovati, ma Berlusconi è presentissimo. Berlusconi no, questo è vero, però la questione è che forse, Massimo Fini, non siamo neanche abituati ad accettare un qualcosa che stiamo vedendo in questi giorni, cioè vedere Alfano che dice musica per le orecchie il discorso diretto, vedere Brunetta che si alza e va a battere un 5 al Premier, cioè sono cose effettivamente anche da un certo punto di vista rivoluzionarie nel linguaggio politico degli ultimi anni, però lei gliela cantate per esempio, credo, sabato il Fatto Quotidiano, anche lo stesso Beppe Grillo a dire, cioè è un po' la sconfitta anche di tutte le mosse del Movimento 5 Stelle, che si ritrova ora a vedere questo inciucio, lo vogliamo chiamare così, o governo di unità. Pare che adesso non si possa più dire pare di no, pare di no, sì. Proibito, verboten, pornografico. No, secondo me è un errore grave, l'ha fatto Grillo, nel senso che invece di stare a cincischiare con la Gabanelli e con Strada, se avesse proposto subito uno dei nomi che pur era in quella decina, cioè Zarrebelchi, Caselli, il giudice Giancarlo Caselli e lo stesso Rodotà, credo che sarebbe riuscito difficile a Bersani rifiutare, perché erano nomi che aveva ventilato anche lui. Invece ha perso due turni e in questi due giorni i due grossi partiti sono organizzati per l'inciucio e da lì è seguito tutto. L'inciucio è quello che è proibito. Sì, sono molto d'accordo su questo. È d'accordo, però Fini, che cosa c'è di male nell'aver dato un governo, se dovesse questo governo fare le cose, non so, la cassa integrazione in deroga da rinnovare, togliere l'IMU, vabbè, contestabile o no, rimuovere un po' dell'economia, dare un po' di speranza sul lavoro ai giovani, dovesse farlo con dei provvedimenti tra tre mesi, magari ci ritroviamo che lo fa. Cosa c'è di male? Ancora da condannare? No, la grossa coalizione può andare benissimo. Io contesto che a governare siano gli stessi che hanno distrutto il paese. Questo non posso accettare. Ecco perché, per esempio, io ho votato Bianca alle ultime elezioni, voto Bianca credo da una ventina d'anni. Questo che non è accettabile. Certo, poi dal punto di vista pratico non si sa come fare, questi sono chiusi nella cittadella, eccetera. Letta diceva 18 mesi, non posso durare anche 5 vabbè, anni. Ma i primi provvedimenti devono arrivare prima, cioè nel senso, se non credete che se non fa dei provvedimenti nel giro di due mesi, tre mesi, a parte l'IMU, cioè la gente dice, oh, ma che state facendo? Cioè, aspettiamo le riforme tra 18 mesi, ma chi se ne frega? O erano completamente idioti mentre sostenevano il governo Monti e non le hanno fatte queste cose per cose, o queste riforme non si fanno in un battibaleno e le risorse non si ritrovano in un battibaleno. Tra parentesi, vabbè, insomma, è un dettaglio, ma fino a un certo punto ministro degli esteri è la non violenta guerrafondaia Emma Bonino, quindi anche la speranza di tagliare le spese militari all'estero, esclusa l'unica che è una missione di pace, che è quella in Libano, per esempio in Afghanistan noi spendiamo del tutto inutilmente e in modo infame, no, devo dire. Non lo taglierà. Com'è l'ossimoro? Non violenta? No. Sì, sono le cose dei radicali, non violenta, ma guerra fondaia come poche, insomma. Questa è la definizione di Massimo Fini, insomma, ecco, non violenta, sì, guerra fondaia. Alla bontà sanguinaria di Santa Caterina da Chiesa, perché è una donna in buona fede, ma le persone in buona fede a volte sono più pericolose di quelle in malafede, perché sono insconfiggibili. Beh, comunque voglio dire, si poteva risparmiare quei 2-3 miliardi che no, qualche problemino, non risanano l'economia, ma non so, il problema dei soldati, adesso l'eccesso le casse integrate che non puoi più pagare, magari lo... Cioè, allora facciamo così, perché Massimo Fini tra l'altro è uno scrittore anche molto attento a quelle che sono le dinamiche della piazza, gli umori del popolo, gli umori della gente. Allora tra un attimo, dopo la pubblicità, 4 minuti con l'onorevole Civati, con Massimo Fini, voglio ripartire e rilanciare le dichiarazioni che ha fatto l'onorevole Cecconi del Movimento 5 Stelle, che in un'intervista oggi al Secolo XIX ha detto: mi spiego, se avesse sparato Preiti contro un'auto blu avrebbe avuto un senso, deprecabile la violenza, ma sparare a un carabiniere che guadagna 1200 euro al mese è una cosa assolutamente sbagliata. Sparare a un politico, beh, in questo caso c'è una differenza, perché è un simbolo della casta. Da qui ripartiamo, ci sarà con noi anche Vittorio Bertola, il consigliere comunale del Movimento 5 Stelle a Torino, anche lui finito nelle critiche per qualche dichiarazione, ha detto: molti italiani sperano e pensano, peccato non abbiano fatto secco un ministro. 24 mattino. Eccoci qua alle 8:37 minuti, siamo con l'onorevole Giuseppe Civati del Partito Democratico e Massimo Fini, editorialista del Fatto Quotidiano, scrittore. Allora, Civati, detto intanto velocemente, per prima di passare a queste dichiarazioni, non so, lei non le avrà ancora lette, del Secolo XIX, questo onorevole Andrea Cecconi, che dice: sparare a un carabiniere è una cosa, uno che lavora per una società in crisi a 1200 euro al mese è sbagliatissimo, ma sparare a un politico c'è una differenza. In questo noto la differenza e insensatezza del gesto di Preiti, perché dice: se avesse sparato contro un'auto blu avrebbe avuto un senso, certo nel dargli torto il gesto avrebbe assunto un significato. E questo ha detto. Però prima le chiedo, lei teme di essere espulso dal PD se ha parlato di queste cose? No, perché no. Ma no, mi pare che sia stato sbagliato parlare di queste cose, anzi questo ha aggravato anche la qualità, la possibilità che il dibattito fosse invece più aperto, più inclusivo. Cioè non si può incominciare a dire che chi non vota qualsiasi cosa, perché quando hanno iniziato a volermi espellere non c'era nemmeno il governo, per cui era un'espulsione a prescindere. Mi auguro che ci sia un confronto vero, e poi io sono disponibilissimo ovviamente a promuovere di questo governo le cose utili che potrà fare. No, detto questo, no, vabbè, prima, lo raccolgo immediatamente. L'espulsione, insomma, diciamo, fare le cose bene. Ma sì, ma sembra archiviata. Allora, la questione è questa, con Massimo Fini, Giuseppe Civati. Voglio salutare anche, ci sta ascoltando Vittorio Bertola. Buongiorno Bertola. Buongiorno, eccoci qua. Buongiorno. Ecco, lei è consigliere comunale a Torino del Movimento 5 Stelle, è stato anche candidato sindaco. Vorrei, prima di arrivare a lei, un parere veloce sia da Civati, sempre l'onorevole Cecconi del Movimento 5 Stelle dice al Secolo XIX: diciamo che se avesse puntato sul portone di Montecitorio, cioè Preiti, avrebbe avuto un perché, perché quello è un simbolo della casta. Civati, siccome molti dicono, mi scrivono, ha ragione lui, smettete di fargli ipocriti, siamo tutti d'accordo con questa analisi, lei che dice? Che sia una delle dichiarazioni più pericolose che abbia sentito in questi giorni. Il fatto che qualcuno si dica d'accordo mi preoccupa moltissimo e mi conferma che siamo un paese in cui la classe politica deve recuperare credibilità, e forse i cittadini però devono ritrovare una misura anche, perché sparare alle persone, anche se sono politici, mi viene da dire, è comunque un gesto violento, folle, pericolosissimo. La persona di cui stiamo parlando ha in effetti sparato contro il portone di Palazzo Chigi, tra l'altro presidiato da due esponenti delle forze dell'ordine che sono anche in condizioni, come dire, molto gravi. No, ma certo. Mi sembra davvero che stiamo prendendo una china pericolosa anche nel dibattito. No, ma certo, ma c'è da dire una cosa, che questo onorevole Cecconi ha, cioè, per carità, diciamo francamente, condanna qualsiasi gesto di violenza, ma questo distinguere, cioè sparare a un carabiniere che prende 1200 euro al mese, che è lì, poveretto, e invece sparare a un simbolo della casta, sono cose che assumono un significato diverso, secondo l'onorevole Cecconi. Però vorrei un parere da Massimo Fini anche su quello che... E poi spieghiamo con Bertola il perché Bertola è finito nelle polemiche. Fini, che ne pensa di queste dichiarazioni dell'onorevole Cecconi? Ma sparare a un singolo individuo, chiunque esso sia, è un atto criminale. Un'insurrezione popolare è un'altra cosa. Non è stato questo il caso. Ma voglio dire, noi non stiamo altro, facendo altro che... Sarebbe quasi auspicabile. Noi non facciamo altro che inneggiare alle primavere arabe. Le primavere arabe non è che siano non violente, sono primavere dove la violenza ha la sua parte. Vabbè, ma che motivo ci sarebbe di fare un'insurrezione? Secondo lei sarebbe quasi auspicabile un'insurrezione popolare? Ma se uno crede che questa non è più una democrazia, ma una parodia di democrazia, io lo penso da tanti anni, se è un'altra cosa da quello che dice di essere, un'insurrezione popolare avrebbe la legittimità che hanno le insurrezioni popolari, che poi possono essere vincenti o sconfitte, insomma. Ma sparare a una singola persona è totalmente folle, è un atto criminale. Allora, insomma, vedete che il clima è questo. Allora, Bertola, vogliamo chiarire, lei ha messo su Facebook le seguenti parole che le hanno, hanno creato un po' di polemiche e un po' di problematiche. Il vero problema non è che qualcuno vada davanti a Palazzo Chigi e spari durante il giuramento del governo, il vero problema è che in questo momento, ne sono assolutamente certo, alcuni milioni di italiani pensano: peccato che non abbia fatto secco almeno un ministro. Intanto lei perché le ha scritte queste cose? Perché pensa davvero, insomma, che molta gente, come posso confermare anche dai messaggi, purtroppo pensa così? Ma sì, infatti io volevo proprio lanciare l'allarme su questa situazione, nel senso che io ovviamente mi sembra chiaro, ma lo ribadisco, non auspico che nessuno spari nessuno, e neanche non auspico nessuna insurrezione popolare, se non un'insurrezione nelle cabine elettorali per mandare via la classe politica con la democrazia. Però è evidente a chiunque cammini per strada, vada nei mercati, parli con la gente, che c'è questo sentimento diffuso ed è ora di cominciare a parlarne. Infatti forse il dibattito che ne è venuto fuori non è stato quello che speravo, perché è stato più rivolto a, diciamo, contro di me, che ho osato infrangere questo tabù e dire questa cosa che non si poteva dire, piuttosto che ad affrontare il problema. Però almeno ne stiamo parlando finalmente del fatto che comunque c'è un clima veramente preoccupante in questo paese, e ci sono tante persone, come avete visto anche voi, che sono assolutamente d'accordo, non con la condanna di questo gesto, ma proprio con l'affermazione che appunto io ho riportato. Sì, certo, lei dice: io ho solo fotografato in qualche modo quello che è il sentimento, a mio parere, di molte persone, cioè che molte persone, ahimè, pensano così, e quindi bisognerebbe aprire un dibattito sul perché molte persone arrivano a pensare questo. Però l'hanno accusata di, come dire, di essere un po' ambiguo per il suo ruolo istituzionale, insomma, di rappresentante delle istituzioni, in questo caso consigliere comunale a Torino, di essere un po', di giocare un po' su questo aspetto, quasi ci fosse una sorta di giustificazione, anche se lei ci sta dicendo ovviamente che non è così. No, ma infatti basta leggere esattamente quello che ho scritto per capire che, cioè, io lo segnalo come un problema e non certo non lo fornisco come una giustificazione in generale per nessun tipo di violenza, neanche per quello che è accaduto. Però appunto evidentemente c'è un problema di comprensione, e questo è preoccupante da parte della politica, specialmente della politica di livello nazionale, per cui magari c'è anche, anzi credo sicuramente, una parte della politica che ha voluto strumentalizzare queste parole in questo momento per trovare un qualsiasi pretesto per attaccare il Movimento 5 Stelle. Però penso che ci sia proprio anche un problema di comprensione, cioè ci sia un gruppo di persone, su quelle che reggono la politica a livello nazionale, forse anche in parte l'informazione a livello nazionale, che hanno totalmente perso il contatto con la realtà, e quindi se uno gli dice quello che è normale che sa chiunque appunto viva per la strada, queste persone pensano che sia una roba inventata, per non scrivere in cielo. Ecco, lei non l'avrà ancora letta forse l'intervista al Secolo XIX, ma certamente io dalla rassegna stampa sono un po' sobbalzato, perché è nel vedere che molta gente vince l'onorevole Cecconi del suo stesso partito, Movimento 5 Stelle, ha ragione. Ma come si fa a dire, certo, lui, anche lui dice è deprecabile la violenza, ma sparare a un simbolo a un auto blu al portone di Montecitorio almeno avrebbe un significato, cioè il significato del volere colpire un qualcosa che riguarda la casta. Queste secondo me sono parole pericolosissime, secondo lei? Sì, io non sono d'accordo, nel senso che anche sparare a un auto blu non ha nessun significato, se non quello appunto di mettere in pericolo comunque delle vite, cioè come secondo me appunto il lavoro che sta facendo il Movimento 5 Stelle semmai è proprio quello di offrire uno sfogo democratico a tutta questa rabbia. Cioè, il problema è, cioè, le persone anche che più spesso dicono queste frasi, non sono tanto gli elettori del Movimento 5 Stelle, sono quelli che incontro per la strada che mi dicono che non stanno neanche più a sentire il Movimento 5 Stelle, perché hanno perso completamente la fiducia nella politica, nelle istituzioni e forse anche nella democrazia. Cioè, credo che sia in questa grossa pancia di ormai metà degli italiani quasi, che non vanno più a votare, non credono più allo Stato, che che sia lì la parte più pericolosa. Poi non so, non credo che il mio collega volesse dire che fosse giusto. No, no, che fosse giusto, no, no, no, infatti questo no, lo ha detto più volte in questa intervista. Condanno qualsiasi tipo di violenza, non la giustifica, però sa, dice, però colpire un simbolo del potere nella follia avrebbe un significato, cioè mentre colpire il carabiniere, il povero carabiniere che è lì a lavorare a 1200 euro al mese proprio non ha nessun senso, ma invece se la fosse presa con qualsiasi altro simbolo del cosiddetto potere, anche se nel torto, il gesto avrebbe assunto un significato, un senso. Eccoci qua allora, Matteo dalla provincia di Milano, buongiorno. Sì, buongiorno, permettetemi di abbassare la radio un secondo. No, io semplicemente non volevo parlare di quello che è accaduto a Roma, della sparatoria, ma più che altro di quello che è stato presentato ieri dal PD come in sostanza programma. A me sembra di vedere più che altro che sia stato messo in atto quello che era un po' il programma del Movimento 5 Stelle, perché alla fine se stiamo a guardare i punti principali di quello che del programma che è stato presentato dal PD, non era altro che quello che era stato presentato dal PD, guarda, lei dice dal PD, dal governo delle larghe intese, diciamo dal governo dell'inciucio, perché erano tutti i punti che erano sbandierati in campagna elettorale dal Movimento 5 Stelle, che poi i due partiti principali che hanno governato per 20 anni, che per 20 anni non hanno fatto nulla di quello. Cioè, che lei sta dicendo che ci sono alcuni punti del programma. Guardi che anche Roberta Lombardi, intervistata oggi al Corriere della Sera, ha detto così: ci sono, non so, via il finanziamento ai partiti, oppure sì, via le province, sono punti sui quali. Capisco questa cosa, e loro possono integrare anche i loro programmi, ma loro adesso li vanno sbandierando come fossero i loro cavalli di battaglia. O reddito ma per 20 minimo. Anni che cosa hanno fatto queste persone? Legge anticorruzione, finanziamento dei partiti, eccetera. Ma cosa hanno fatto? Ma lei non crede minimamente, come ha detto Fini, che la classe politica che ci ha portato nel baratro, uso le parole di Fini, possa essere adesso rappresentativa del popolo. Grazie Matteo, voglio andare a Vicenza da Emanuele. Buongiorno Emanuele. Buongiorno a voi. Dica. Ma noto con dispiacere che Grillo aveva ragione quando diceva che bloccava la violenza con la convogliava nel movimento. La violenza, cioè che convogliava? Sì, lui diceva di essere. Cioè che se non ci fosse il movimento ci sarebbe stata la violenza, sì. Esatto, mi sembra che siamo tutti convogliati lì. Inoltre, faccio una domanda provocatoria: se è giusto sparare a un politico perché ci ha derubato e qualsiasi nessuno ha detto che è giusto, però no, non usiamo cioè neanche sì. L'onorevole del Movimento 5 non ha minimamente detto che sia giusto. Sì, è giustificabile. Ha detto che è assolutamente deprecabile, ma sparare a un simbolo del potere ha un significato, cioè uno dice ha un senso, esatto, ha un senso. Quindi se io uccidessi, che ne so, il killer di mia moglie per assurdo, quello che mi ha fatto male, potrei essere più giustificato rispetto a uccidere il primo che passa per strada. Sì, lei dice dare la patente di giustificabilità in base a quello che uno ha fatto, ma effettivamente, guardi, per me sono parole folli, però sembro folle io che dico che siano parole folli. Massimo Fini, però anche questa dell'insurrezione armata, non l'insurrezione armata, l'insurrezione popolare, poi l'insurrezione, poi come ci può essere se non tramite la violenza, se si vuole sovvertire qualcosa? In Tunisia hanno fatto un'insurrezione violenta ma non armata, in 2 giorni hanno cacciato. Perché quelli sono andati via. Ben Ali e la sua cricca. È chiaro che le situazioni sono diverse, ma fino a un certo punto, perché ci sono dei momenti, un lungo periodo in cui la democrazia non è stata tale, per cui, ripeto, mi pare che le rivoluzioni non siano mai state condannate in quanto tali. Qui non ci troviamo di fronte a una rivoluzione, ci troviamo di fronte a uno, non so quanto in possesso del suo cervello, il quale spara a casaccio e comunque anche se avesse colpito un politico non avrebbe avuto nessun senso, se non un senso criminale. Io però volevo dire una cosa, avevo scritto a suo tempo che il Movimento 5 Stelle incanalava proprio istituzionalizzava in qualche modo una rabbia che nel paese c'è, ed è questo è inutile nasconderlo, certo. Non che debba portare atti di questo tipo, nel paese c'è e il Movimento appunto la istituzionalizza. Dopodiché basta, cioè c'è un'azione di questo genere e non so, il giornale di Berlusconi, sì, titola Il Grilletto. Il Grilletto. Capisce. Dice ci sta tutto, ci sta qualsiasi tipo di dichiarazione. Allora, se uno dà la colpa loro, è chiaro, no? C'è anche un'altra cosa da dire, che ogni volta queste cose, che poi tra l'altro io ho poi tutt'altra percezione, penso che sia una questione che non riguardi la politica, che riguarda il mondo occidentale, una frustrazione che non è economica, che riguarda, abbiamo visto in America, ogni momento, no? Ci sono atti di violenza spaventosi, sì, sì. Ecco, quindi non credo che sia una questione puramente... Non economica, ma anche di come stile di vita. Però Fini, mi faccia chiedere un attimo a Bertola questo: lei non ha sentito, diciamo, Grillo non l'ha chiamata dopo queste dichiarazioni, Casaleggio? No, non ci siamo sentiti. Lei non, ecco, anche oggi credo Repubblica glielo chiede, non si sente un cattivo maestro, cioè qualcuno che ha rischiato un pochino di giocare con le parole, perché qualcuno ha detto addirittura che lei si deve dimettere dal Consiglio Comunale. A me sembra che sia piuttosto appunto alcuni media che stanno cercando di passare questa teoria manipolando quello che ho detto. Io mi sento semplicemente come una persona che, anzi, stando nelle istituzioni, ha il dovere di segnalare i problemi e di non far finta di niente. Credo che forse parte di questa rabbia derivi proprio dalla sensazione che hanno molte persone di fronte alla propria disperazione, magari di aver perso la casa, il lavoro, eccetera, che le istituzioni non solo non gli diano soluzioni, ma non li stanno neanche a sentire, cioè gli chiudono le porte in faccia. Dicono, questo sì. Però detto che Preiti lo condanniamo tutti nel gesto, lei anche lei farebbe questa distinzione, cioè ne capisce la disperazione che può portare a fare una cosa del genere? La capisco, ma non la giustifico, nel senso che io parlo comunque quotidianamente, proprio per il mio ruolo di consigliere comunale, con persone che sono in difficoltà del genere, anche peggiori, e cerchino di trovare una soluzione. A me capita spessissimo che queste persone parlino o di suicidio o di voler fare atti violenti, e io magari passo un qualche ora a convincerle che non è la strada migliore, non è una soluzione. Però ecco, questa voglia di arrivare a un atto del genere contro di sé o contro gli altri la sento veramente spesso, e quindi da questo punto di vista capisco anche quale può essere il meccanismo che porta poi a una follia del genere. Teme anche che possa non rimanere un caso isolato, mi sembra di capire, almeno dalle persone con cui parla, cioè sente una disperazione che c'è abbastanza diffusa. Sì, sicuramente è proprio per questo che ho voluto lanciare questo allarme, perché poi noi a Torino, come credo in tutte le grandi città, abbiamo ancora tutti i giorni sotto il municipio magari accampate persone che sono sfrattate, senza casa, eccetera, e che appunto trovano soltanto magari la polizia schierata e le porte del municipio chiuse. Cioè, credo che sia proprio questo, bisogna riuscire a ristabilire una qualche forma di dialogo tra la politica e questa parte dell'Italia disperata. Sappiamo tutti che magari non si riesce da un giorno all'altro a trovare delle soluzioni, però almeno queste persone devono avere la sensazione che lo Stato lavori anche per loro, perché se hanno la sensazione che lo Stato di loro se ne freghi, credo che veramente rischiamo di avere altri casi di questo genere. Allora, io intanto mi fermo qui e vi ringrazio Massimo Fini, così come Pippo Civati, che ci ha lasciato qualche minuto prima, e anche Vittorio Bertola, consigliere comunale del Movimento 5 Stelle a Torino, che lo ringrazio perché è venuto qui. So che la rete invece ha fatto un sondaggio e non parteciperà a trasmissioni televisive, perché così ha deciso il popolo del Movimento 5 Stelle. Ma noi siamo la radio, l'ha detto anche Beppe Grillo, siamo una cosa diversa, e noi sempre i microfoni sono aperti anche agli esponenti del Movimento 5 Stelle. Domani siamo in onda regolarmente, 1° maggio si lavora, alle 6:30 siamo qui, e allora l'appuntamento è rinnovato a domattina 6:30. 24 mattino.